Ok, chi sono io già lo sapete, no? È inutile che faccio il solito intro, ok, Big J, solita roba, buone nuove. Anche perché se stai ascoltando questo pezzo vuol dire che il disco l'hai scaricato. Sì, è la prima volta, insomma, una delle prime. E dicono che la prima volta non la scordi, ma se ti ricordi anche la seconda non è peggio. Oh. La prima volta che ho scritto di me in versi, la prima in cui gli equilibri li ho persi, in prima media non feci tanto in effetti, in prima media che persi la testa per degli occhi belli. La prima è stata lei che mi ha fatto male, ma ho perso il conto di quando è finita male. La prima e non si scorda, dicono, ma se ricordi anche la seconda, se sei in pericolo. La prima volta che vidi sangue non fu rissa, ma è meglio non divulgarla quanto è ridicola. Tanto non è il livido ma la ferita che ti ricorda di quanto tu sia stato pirla. Non è la prima, questa è lustri precedenti. Non mi pento della mia prima come chi ha precedenti. La prima è sempre la migliore, almeno dicono, ma qualche momento è meglio non riviverlo. E se ti scappa un sorriso vuol dire che è stato bello anche per poco. Anche se la prima è sempre la migliore, almeno dicono, ma qualche momento è meglio non riviverlo. E se ti scappa un sorriso vuol dire che è stato bello anche se non puoi più riviverlo. La prima volta che ho timbrato un cartellino ero forse poco più che ragazzino apprendista, lo ricordo bene come fosse adesso. Il mio capo era simpatico ma solo al cesso. La prima volta che ho pigiato fui sgamato e non fu l'unica, sono recidivo ammaestrato. La prima volta che ho guidato ho sgasato e l'istruttore di primo acchito acquistato. All'esame teso come una corda senza fiato, tutto bene a parte la cintura che ho scordato. Perché la prima non la scordi mai, dicono, ma se ricordi anche la seconda sei in pericolo. Non è la prima, questi illustri precedenti. Non mi pento della mia prima come chi ha precedenti. La prima è sempre la migliore, almeno dicono, ma qualche momento è meglio non riviverlo. E se ti scappa un sorriso vuol dire che è stato bello anche per poco. Anche se la prima è sempre la migliore, almeno dicono, ma qualche momento è meglio non riviverlo. E se ti scappa un sorriso vuol dire che è stato bello anche se non puoi più riviverlo. La prima è stata riccione sotto il sole, la piadina degli dei, le granite per colazione, la baia alla sera di fisso, fare l'after dopo il co. La prima stronza, la prima canna, no, cambia disco. Fatto tutt'altro, io almeno non mi eclisso. Forse meglio, forse peggio, dove sta scritto. Ognuno fa le sue scelte, per ora io vado dritto. La prima volta che ho avuto una delusione, oh, sprecato 3 anni della mia generazione. Ti ho preso i DVD di Vasco, sai di che parlo, spero prenda un fuoco mentre li stai guardando. Non è la prima, queste illustri precedenti. Non mi pento della mia prima come chi ha precedenti. Ciao.